Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo da una notizia appena battuta dalle agenzie. Secondo il centro studi Promotor, il dato che arriverà mercoledì sulle immatricolazioni auto in Italia sarà il peggiore da 15 anni. Vedremo, stiamo cercando anche di metterci in contatto con i responsabili, perché chiaramente, vista anche tutta la vicenda Fiat, su cui oggi, ve lo dico subito, non torneremo, ma e l'andamento complessivo del settore, delle vendite di Fiat in Italia, il dato è quanto mai rilevante. Per il resto la giornata vede i mercati finanziari deboli, meno 0,70% il FTSE MIB, meno 0,60% Parigi, meno 0,40% il Dow Jones, meno 0,65 anche Francoforte, e Londra invece Hong Kong questa mattina ha chiuso con lo 0,68% di rialzo, il Nikkei più 1,76% di rialzo. L'euro sul dollaro sta viaggiando intorno a quota 1,2680-1,27. Per quello che riguarda il rapporto di cambi, i titoli sono positivi solo su Banco Popolare più 1%, Campari più 1, Fondiaria più 0,80, Finmeccanica più 0,40, come A2A, Snam Rete Gas più 0,3%, Exor più 0,1%. Ancora il fronte opposto invece vede UbiBanca essere il titolo peggiore, meno 3% quasi, Prismian meno 1,90, come Geox e Autogrill, l'1,70% lo perde la Popolare di Milano, e l'1,60 ST Microelectronics, meno 1,4 lo fa Telecom Italia come Tenaris, l'1,3 lo perde Intesa, ma anche il Monte dei Paschi. Infine Generali e Unicredit meno 1%. Ci occuperemo come sempre di borsa, ma anche di tentativi di ripresa economica. Qualcuno di voi ricorderà un industriale che già nel 2009, dopo una lettera che aveva scritto, un piccolo industriale, usammo come nostro riferimento per capire cosa stava succedendo alle piccole imprese, lamentava l'impossibilità di ottenere credito dalle banche, la necessità di pagare i suoi dipendenti, l'aver utilizzato anche soldi propri per riuscire a dare gli stipendi e poi le tredicesime. Poi l'abbiamo risentito a fine del 2009, inizio 2010, le cose erano leggermente migliorate, oggi sarà la volta di tornare, usandolo così come esempio, come benchmark, direbbe chi ha studiato, per quello che è l'andamento delle piccole imprese, al di là poi dei dati statistici. E di dati parleremo anche in apertura, perché oggi su Sole 24 Ore del lunedì c'è un ampio studio fatto dal Sole 24 Ore assieme alla società di ricerca e sintesi sulle prestazioni, chiamiamole così, delle varie regioni italiane, non misurate solo con il dato statistico, chiamiamolo PIL regionale oppure reddito pro capite, ma misurate anche su altri indicatori che vanno dalla salute, all'istruzione, alla demografia, l'ambiente, il credito, l'economia. E lì se ne vedono delle belle, nel senso che la maglia rosa in questo tour degli ultimi 10 anni va alla regione Lazio, che ha fatto più progressi nei vari indicatori della Lombardia e del Veneto, per esempio, e invece la maglia nera alla Sardegna, subito prima Calabria, Sicilia e Puglia. Ripeto, non sono dati statistici in senso stretto, sono dati che mettono assieme vari indicatori, vari punteggi. Ne parliamo in apertura, perché tutto questo chiaramente si integra e va in qualche modo a essere complementare a quella che è la logica del federalismo, e non solo nella sua parte più attuativa, quindi i costi standard per la sanità e altri elementi, ma in quello che è l'Italia, come si diceva una volta, molto lunga, troppo lunga delle volte, quindi troppo diversa. Poi parleremo di un'operazione, di una nuova operazione, di un'offerta pubblica. È un periodo in cui chi o i grandi gruppi che hanno liquidità stanno facendo acquisti, come molti osservatori già prevedevano un anno fa. Shopping vero e proprio, oggi sotto tiro è un colosso, ma ce ne occuperemo fra poco, un colosso proprio a livello mondiale, Nella seconda parte del programma cercheremo anche, come dicevo, di capire che cosa è successo sul settore auto. Il colosso a cui faccio riferimento invece è Sanofi Aventis, colosso francese, che ha praticamente su questo ha fatto un'offerta da 18 miliardi e mezzo, ma il CDA di Genzyme, spero di pronunciarlo bene, ha bocciato l'offerta perché ritenuta molto al di sotto del valore reale dell'azienda. Comunque la società americana ha rifiutato, il colosso è un colosso francese, ma quello che fa impressione è l'ammontare dell'offerta, 18 miliardi e mezzo di dollari, mentre Cisco oggi conferma di essere interessato all'acquisto di Skype, Intel ha annunciato che comprerà l'unità wireless di Infineon, quindi si muovono molto soprattutto le corporate, i grandi gruppi che hanno una visione, una scala mondiale. Ultimo dato, come sempre, quello per i vostri sms, 349-238-6666. Le notizie in breve. E partiamo come sempre dal petrolio, 74,76 dollari al barile, l'apertura un meno 0,6%, ripeto, per fortuna il petrolio non fa molta notizia in questi mesi. Alcuni di voi già chiedono al nostro numero per gli sms un commento sul vertice di Jackson Hole, di cui molti hanno scritto i giornali, in cui si è cercato di capire quali sono le prospettive economiche a livello mondiale, i pericoli di una forte inflazione in America, la tendenza opposta invece in Europa. Ne parleremo anche nei prossimi giorni. In sostanza sono emerse due visioni abbastanza distinte: da un lato l'America che vuole continuare a pompare, se necessario, liquidità attraverso la banca centrale, ma non solo, incurante in qualche modo del deficit e del debito, perché la priorità è far ripartire l'economia in maniera più robusta, mantenere e anzi aumentare possibilmente i consumi. Dall'altra parte c'è un'Europa che invece è molto più attenta ai deficit, ai debiti dei singoli paesi, ai piani di rientro, e questo coinvolge chiaramente anche nel medio termine l'attività della Banca Centrale Europea. E non c'è solo l'Europa e l'America, che pure sono stati due grandi protagonisti al vertice di Jackson Hole, c'è anche il governo giapponese che, secondo quanto dichiarato oggi il premier nipponico Naoto Kan, starebbe preparando un nuovo piano per sostenere la ripresa dell'economia nazionale, che potrà contare su fondi per circa 8 miliardi e mezzo di euro, per la precisione 920 miliardi di yen, piano che verrà varato il prossimo 10 settembre. Poi c'è la Cina, perché? Perché ne abbiamo parlato giorni fa della quotazione in borsa di Agricultural Bank of China, Agibank. Ebbene, ha già sospeso, temporaneamente, ci mancherebbe, l'erogazione di mutui, di prestiti per l'acquisto di casa, perché ha detto che il mercato è in forte crescita, potremmo aggiungere in eccessiva crescita, pur definendo il mercato immobiliare in Cina molto sano. C'è, lo ricordo, chi da mesi ormai scrive del timore, del rischio che in Cina possa esservi una bolla immobiliare. Insomma, una notizia particolarmente sensibile visti i rischi appunto paventati nelle settimane scorse. Una buona notizia invece arriva dagli Stati Uniti, dove la spesa personale, che è un indicatore fondamentale dei consumi privati, è cresciuta a luglio dello 0,4%, è il maggior rialzo da marzo, e i redditi sono cresciuti dello 0,2%, però contro attese di uno 0,3%. In realtà, se si va a vedere i redditi personali degli americani al netto delle tasse e dell'inflazione, addirittura c'è stato un calo. Il motivo per cui, nonostante i redditi in calo, vi sia stato un aumento dei consumi è spiegato principalmente con l'acquisto di automobili, che sono aumentate tra giugno e luglio di 500.000 di unità. E poi le notizie dall'Europa. Allora, dall'Irlanda arriva una notizia che, insomma, preoccupa, anche se speriamo che non preoccupi troppo, ossia il rendimento delle obbligazioni irlandesi, o meglio la differenza tra questo rendimento e quanto rendono invece le obbligazioni tedesche, il Bund tedesco, si chiama spread, questa differenza è schizzato ai massimi da quando esiste l'euro, e quindi dal 1999, 355 punti base, il 3,55% è la differenza tra quanto rende un Bund tedesco e l'equivalente irlandese. È invece calato, e questa è una buona notizia, il rendimento dei BTP italiani, quelli a 10 anni. Nell'asta di oggi, con scadenza marzo 2021, il tasso infatti è calato al 3,81%, 12 centesimi di calo. E domanda buona, anche se non fortissima, 6 miliardi e 680 milioni di euro di domanda per 5 miliardi di BTP offerti, quindi tutti assegnati i BTP collocati oggi. Ripeto, parleremo alle 18 di quello che vedono i piccoli imprenditori nella loro attività quotidiana. Quello che invece fotografa oggi la Commissione Europea attraverso l'indicatore sulla fiducia delle imprese e dei consumatori è un'area euro in cui ad agosto la fiducia è cresciuta, è tornata a crescere, tranne che in Italia. Il paese dove la fiducia è cresciuta di più tra imprese e consumatori è il Regno Unito, +1,5, poi la Germania, +1,1, e del resto la Germania ha avuto conti e dati eccezionali sull'export. Miglioramento un po' più modesto in Spagna, +0,9, Francia, +0,4, e è calata invece la fiducia di imprese e consumatori in Italia, -0,9, e in Polonia, -0,9, e anche in Olanda, -2%. Allora, della riapertura delle fabbriche, oggi avete letto su tutti i giornali, noi appunto la ricorderemo con il nostro benchmark, il benchmark del piccolo imprenditore. Vedremo insomma quante siano fondate le speranze di un consolidamento della ripresa, ripresa che sicuramente c'è stata nei primi sei mesi del 2010. Consolidamento vuol dire mantenere quella ripresa e possibilmente fare meglio, molti timori che arrivano dagli Stati Uniti, ma qualche nota positiva arriva soprattutto dai dati tedeschi, visto che noi li esportiamo, primo paese di sbocco, e quindi siamo abbastanza agganciati, per così dire, alla locomotiva tedesca. Partiamo invece dal federalismo, dalla pagella socio-economica delle regioni italiane, perché spesso anche voi contestate il fatto che si possa misurare non solo la felicità, quella è abbastanza difficile, ma anche la salute di una regione solo su indicatori statistici classici, PIL e reddito pro capite. Oggi sulle 24 ore è tornato appunto con una lunga ricerca fatta assieme alla società Sintesi a prendere in esame 40 indicatori per capire che non tanto come sono messe, ma come si sono mosse in questi 10 anni le varie regioni italiane. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, e allora se ne vedono delle belle, perché se la classifica, come anticipavamo, viene misurata su 40 indicatori, anche economici, ma anche sociologici, demografici, ambientali, del credito, sulla salute, e si va a vedere come si sono mosse le regioni, si scopre che al primo posto c'è il Lazio, quindi quanto medaglie oro, medaglie argento, medaglie bronzo, si è mossa, ha recuperato molte più posizioni, poi seguono Lombardia, Veneto, vado in ordine, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Molise, ultimi posti per Campania, Umbria, Puglia, Sicilia, Calabria e ultimissima la Sardegna. Siccome immagino che stanno già arrivando molti sms di così chiarimenti, saluto e ringrazio il collega che ha seguito tutta la classifica e la sua stesura per il Sole 24 Ore, Marco Biscella. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. E poi ne parleremo anche con chi oggi su Sole 24 Ore ha commentato questi dati. Mi riferisco al direttore dell'Istituto di Ricerca Aster, nonché appunto editorialista Sole 24 Ore, Aldo Bonomi. Buonasera anche a lei, professore. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Allora, Marco, intanto questi indicatori, così tagliamo la testa al toro e capiamo cosa avete fotografato. Ripeto, più la dinamica, come si direbbe a scuola, non è tanto il risultato ma il progresso fatto nel corso degli, degli studi e quali appunto, come sono mixati, come sono amalgamati i vari indicatori che voi avete preso in considerazione. Sì, innanzitutto abbiamo proprio cercato di fotografare la dinamica. Stando alla metafora che dicevi tu, è come se noi fossimo andati a misurare il comportamento della classe delle regioni rispetto ai quadrimestri della scuola. Quindi non tanto il voto finale, ma l'impegno che l'alunno regione ci ha messo. Gli indicatori sono 43 per la precisione, sono suddivisi nelle 8 macro aree che hai ricordato all'inizio e sostanzialmente abbiamo preso in considerazione gli ultimi 10 anni perché abbiamo un po' voluto vedere come le regioni si sono mosse dopo gli ambiziosi obiettivi di Lisbona 2010 che erano stati proprio individuati quell'anno e andavano soprattutto su tematiche non prettamente economiche, ma volevano anche misurare l'innovazione, la capacità di attenzione all'ambiente. Il lavoro che abbiamo fatto è stato sostanzialmente calcolare i valori standardizzati per ciascun indicatore, in modo tale da poter rendere confrontabili indicatori diversi e unità di misura diverse. Fatto questo lavoro è stata calcolata la media italiana e poi siamo andati a vedere come le regioni si sono mosse in questi 10 anni rispetto alla media e rispetto alle altre regioni. Quindi, per sgombrare intanto il campo da un equivoco che magari può aver colpito i lettori, qui non diciamo che il Lazio è la regione migliore, si dice che partendo da un certo punto, in questi 10 anni, considerando i 43 indicatori e le 8 macro aree, è quella che ha fatto più progressi, perché Lombardia e Veneto, ovviamente, come dimostrano le classifiche parziali che poi non abbiamo pubblicato perché 43 indicatori per 20 regioni, certo, è sterminato, Lombardia, Veneto, Toscana, sono regioni Emilia-Romagna che hanno comunque delle posizioni già alte. Molto già alte. Noi cosa siamo andati a vedere? Se una regione stava sopra la media e comunque ha migliorato, diciamo che ha vinto la medaglia d'oro. Se stava sotto la media ma ha migliorato, gli abbiamo dato la medaglia di bronzo. Se invece stava sopra la media e peggiorata, la medaglia d'argento. Ovviamente quarto posto per chi stava sotto e performance negativa. Accanto alle medaglie, il medagliere dimostra che il Lazio ne vince 4 d'oro e quindi è al primo posto, per ogni medaglia abbiamo assegnato un punteggio. Perché il Lazio vince? Perché abbiamo cercato di premiare nel punteggio l'andamento virtuoso, quindi 3 punti alla medaglia d'oro, 1 alla medaglia d'argento, 1,5 alla medaglia di bronzo e 1 punto in meno invece per chi aveva il quarto posto. Sì, allora, la cosa che mi sembra interessante, lo dico anche a chi scrive, è che visto che qua si va verso il federalismo, se non cambiano le cose, sappiamo tutti che l'Italia è molto lunga, che c'è un nord molto ricco, un centro che sostanzialmente è autosufficiente e un sud che ha traino. Però fotografare il noto, il luogo comune, mi sembra poco utile. Altra cosa è dire, bene, tu stavi sotto ma ti stai muovendo bene, un po' come quando commentiamo, lo dico a chi scrive, l'andamento dei deficit sanitari. L'importante è vedere se una regione si è messa in carreggiata e magari va in pareggio nel 2012, ma l'importante è il percorso. Ripeto, un po' come a scuola, quando l'insegnante premia lo sforzo, non solo il risultato effettivo. E poi devo dire che sulle macro aree complessive c'è qualche sorpresa, cioè non c'è nessuna sorpresa nel vedere il Trentino Alto Adige primo per ambiente e demografia. È interessante vedere che, per esempio, in altre voci, penso alla salute, non viene assolutamente primo, viene dopo il Molise, la Valle d'Aosta e la Liguria, sempre come progresso. E nell'istruzione, uso il Trentino come esempio, viene ben dopo l'Emilia Romagna, la Liguria, l'Umbria, il Molise, il Lazio, la Toscana, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata. E anche nell'economia, volendo continuare a usare il Trentino Alto Adige. Allo stesso modo, per converso, potremmo dire che alcune regioni del Mezzogiorno ben si sono mosse, devo dire purtroppo che la Puglia in questo progresso è rimasta molto al palo, cioè è in fondo alla maggior parte dei macro indicatori che avete utilizzato, l'ambiente, l'economia e anche la salute e altre voci. Mi piace molto questa idea di guardare come uno si muove più che semplicemente il dato da cui il dato oggettivo. Professor Bonomi, spero che condivida anche lei questa analisi, cioè che il progresso è poi quello che ci fa capire se riusciremo prima o poi a accorciare quest'Italia troppo lunga oppure ci teniamo tra Italie, come dicevano anni fa alcuni suoi colleghi. Ma io capisco che, usando la metafora di Biscella, che diceva ragioniamo come se fossimo dentro un arco plastico, la cosa importante di questa classifica è ragionare nel nuovo secolo e il secolo precedente. Lo dico con una battuta. Nel Novecento le regioni esistevano, ovviamente, erano state istituite, ma vigeva una specie di patto non scritto per cui allo Stato centrale, ai grandi partiti di interesse nazionale, era delegata e tenevano la primazia del rapporto con la grande impresa di Stato, l'IRI, le grandi imprese private, le banche di interesse nazionale, non dimentichiamo che le banche erano di proprietà pubblica, lo Stato centrale si occupava di questo e alle regioni, buon ultime, figlie di Dio minore, veniva lasciato il rapporto con le banche popolari, le casse di credito cooperativo, gli artigiani, le piccole imprese, quella che viene chiamata la Terza Italia. Io dico sempre con una battuta, per fortuna che era così, perché sennò la Terza Italia non sarebbe mai venuta avanti, quella delle piccole imprese, delle medie imprese che molto spesso raccontiamo sul Sole 24 Ore. Ovviamente questa classifica invece fotografa quando le regioni non sono più state figlio di un dio minore, ma col decreto Bassanini nel nuovo secolo hanno incominciato a esercitare nuove funzioni che eserciteranno nell'ipotesi del federalismo ancora di più, nel senso che alle regioni sono delegate funzioni strategiche per ciò che riguarda l'economia, per ciò che riguarda la salute, la sanità, per ciò che riguarda l'istruzione, per ciò che riguarda il governo del territorio, tutti indicatori che sono stati presi in considerazione. Quindi in primo luogo direi che questa classifica, se usiamo, vuol usare questo termine molto competitivo e molto da gara agonistica e che mal si attaglia spesso ad ragionare su grandi problemi socio-economici o storici, però detto questo le regioni hanno incominciato ad operare in questi ultimi 10 anni e quindi la classifica dà il senso di questo movimento. Tant'è vero che da questo movimento alcuni dati possono essere incominciati a essere ragionati. Certo. Ecco. E io vedo che molti commentano anche in chiave politica. Siamo d'accordo, se il progresso è 2000-2010, per il Lazio c'era anche il governatore Marrazzo, così come per altre regioni c'erano altri governatori, nessuno vuole polemizzare su questo. Stiamo ragionando dei progressi. E devo anche dire che per alcune cose arrivano delle conferme, per altre ci sono delle sorprese vere e proprie. Per esempio, se si va a analizzare il progresso fatto, non il dato finale, ma il progresso, il miglioramento dello studente, nella salute il Molise è al primo posto, precede la Valle d'Aosta e la Liguria, così come la Basilicata nell'ambiente si colloca prima del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna e delle Marche. Certo, partiva più bassa, direte voi, va bene, siamo d'accordo, ma come un po' ragionare della Cina e del Giappone? Il Giappone sarà più alto a livello oggettivo, ma quella che sta facendo i progressi più forti è la Cina. Detto ciò, io volevo commentare con lei, professore, ma anche magari con Marco, alcune notizie che sono uscite oggi, perché mentre stiamo ragionando di progressi, della mentalità, dell'assunzione di responsabilità, un'inchiesta condotta dal portale universinet.it a 11.000 neodiplomati laurea breve universitaria, l'85% Bonomi ha risposto che vorrebbe essere raccomandato. Ok? No, ho capito, ci sarà anche da ridere, però non è che la nuova Italia si costruisce con le vecchie logiche. Ma ci sono delle cose pazzesche, perché poi è stato chiesto qual è la raccomandazione migliore. Allora, il 18% ha detto quella che arriva da un parente professore, mentre era più alta nel 2009, quindi pesate sempre di meno come raccomandazione. Il 25% una relazione sessuale, era il 12% nel 2009, quindi qui qualche effetto velina c'è stato. L'11% i centri di preparazione al test, il 18% un politico nazionale, anche questo è in calo, quindi siete in buona compagnia Bonomi, e il 23% un parente o un genitore professionista, in aumento, era il 15% l'anno prima. Allora, com'è che si coniuga un'Italia federalista con un'Italia in cui alla fin fine... Sì, girano un po' le percentuali, ma il parente, la relazione sessuale, il politico nazionale, poi nazionale mi interessa, non quello regionale, vengono ritenuti dall'85% degli studenti un elemento positivo, cioè ai fini della raccomandazione. L'85% vorrebbe essere raccomandato. Bonomi. Due battute. Credo che sia improprio assegnare a questo corpo già fragile, che è quello delle regioni, risolvere il problema dell'antropologica abitudine al capitalismo relazionale del nostro paese. Credo che oddio, me la ridica questa, l'antropologica abitudine al capitalismo nazionale vuol dire che siamo abituati a muoverci sulle relazioni e non sui meriti? Diritto di mercato, ma sono logiche di relazione, ovviamente, è chiaro? Sia per ciò che riguarda l'impresa, che molto spesso, e per ciò che riguarda anche la ricerca del lavoro. Detto questo, però, anche qui stiamo attenti a non far confusione, che è vero che federalismo significa portare le decisioni sempre più in basso, ma questo non significa portare le raccomandazioni sempre più in basso. Quindi il vero problema è: si porta sempre più in basso il livello della governance, ma dentro un meccanismo in cui il merito, la selezione e i bisogni e l'attenzione a questo rimane aperto. Ecco, quindi questa è la discussione. Tanto è vero che, se vogliamo riportare queste battute alla classifica di cui stiamo discutendo, in questi 10 anni alcuni movimenti che hanno scompaginato la geografia dello sviluppo incominciano ad esserci. Cioè, se noi guardiamo questa classifica, incominciamo a capire che quella tradizionale ripartizione tra nord, centro, sud, a cui eravamo abituati, incomincia a avere delle smagliature. Vediamo per fortuna. Ecco, lo vediamo dopo il metodo e la pubblicità, perché vorrei, come ultima domanda, poi passiamo alla borsa che ha chiuso con un calo dello 0,6%, vorrei capire se a questo punto, in una logica federalista, sia più importante il dato secco, cioè, oppure il dato relativo, cioè il progresso che tu fai. Voglio essere ancora più chiaro: se più che dire c'è un'Italia ricca, un'Italia benestante, un'Italia povera, sia più importante fare le distinzioni nel futuro tra le regioni che prendono atto che devono muoversi e iniziano un percorso, anche se partono indietro e quindi ci metteranno più tempo, e le regioni che invece stanno ferme, per cui non parliamo più di Italia del nord, Italia del centro, Italia del sud, ma di regioni che si muovono e regioni che invece si siedono. Professor Bonomi, visto che stiamo dicendo che, come un po' a scuola con gli insegnanti bravi, è più importante l'impegno e il progresso che non il voto finale, potrebbe essere per esempio il caso di un Trentino Alto Adige che va così in basso rispetto alle attese perché stava messo così bene e così anche come altre regioni sovvenzionato che ha meno stimoli. Possiamo dire che il federalismo si giocherà tutto non tra il nord ricco e il sud povero, ma tra chi si sveglia e si alza, cammina, e alcune regioni l'hanno già fatto, e chi invece non accetta la sfida? Potrebbe essere anche una regione del nord o del centro? Beh, direi che questa classifica già delinea questo, nel senso che se uno prende la nuova geografia dello sviluppo e dell'attenzione a tematica, ambiente, salute, eccetera, emerge come dato preponderante un nord-est centro, che era quello che poi raccontato da un grande economista di territorio come Giorgio Fuà, ma però se uno guarda c'è Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna a pieno titolo dentro quello che una volta era il nord, le Marche, che sono, cioè la linea adriatica, quest'asse che va da Milano verso la via Emilia, arriva alla via nell'area adriatica, che va tutto dentro un discorso di questo tipo, con in più il Lazio che si aggancia per il recupero che ha fatto in questi 10 anni, eccetto la parte, virgolette, della sanità pubblica, che è il buco nero del Lazio, per cui sale in alto ma non così in alto. Questo è un primo dato. Secondo dato, ci sono regioni del nord che non sono state, per ovviamente anche dati oggettivi, se uno piglia il Piemonte, della crisi della FIAT, della grande ristrutturazione che è avvenuta in questi 10 anni, che ha portato a Detroit, alle discussioni di questi giorni e ai dibattiti, il Piemonte, ma anche la Val d'Aosta rispetto a questo, e il Friuli Venezia Giulia, che è geograficamente nord, ma che in quel NEC, in quel nord-est centro, non si aggancia del tutto. C'è una dimensione intermedia, tra cui anche la Toscana, che si capisce che al di là della governance non è lo stesso modello dell'Emilia-Romagna. Quindi c'è un'altra Italia che sta in questa posizione, e poi anche nella dimensione del sud il dato che colpisce, credo, ad esempio alla Campania, che è prima degli ultimi, dato se uno sta alla cattiva stampa che la campagna ha avuto in questi ultimi mesi, non nessuno l'avrebbe pensato rispetto a questo. Sì, prima anche dell'Umbria. Ed è prima anche dell'Umbria, che stava nel centro dell'Italia, di quel modello tosco-emiliano da tutti celebrati. Quindi vediamo che il movimento costringe tutti a un nuovo riposizionamento. Se il federalismo viene inteso come una capacità operosa di muoversi rispetto a questi parametri, forse si può sperare che quello che in 150 anni non si è riuscito a risolvere, che è il paese slegato, le regioni forse riescono a farlo. Punto di domanda, un punto di domanda grande come una casa, perché ovviamente questo è il discorso. Però questa logica del movimento che premia la virtuosità rispetto ai grandi processi di modernizzazione in atto è una logica che applicata a una classifica competitiva ha senso. E quindi premiare l'impegno, i miglioramenti più che il voto finale, si direbbe a scuola. Fa bene a ricordare appunto che la campagna, che pure ha avuto cattiva stampa, non perché la stampa ce l'abbia con la Campania, perché ci sono dei piccoli problemucci anche lì, ha avuto dei grossi progressi in varie voci che avete analizzato. Marco Michele, per chiudere, qual è il dato, oltre a quelli che ricordavo io, perché è tal Trentino che è al quarto posto, o la Campania che è sopra l'Umbria nel medagliere complessivo, quali sono i casi che ti hanno, quando hai lavorato su questa classifica, che ti hanno così lasciato più sorpreso? E alcuni li avete già ricordati sia tu che il professor Bonomi, però io personalmente, per chiudere in maniera sintetica, mi ha sorpreso il dato della Sardegna, ma non perché la Sardegna si è classificata all'ultimo posto, ma perché con questa classifica, chiamiamola così, dinamica, è, ahimè, mi spiace molto, è l'unica regione che ha ottenuto un punteggio negativo, cioè partendo da una posizione già di debolezza in questi 10 anni, per tantissime ragioni che ovviamente vanno anche al di là delle scelte politiche, perché anche prima si faceva cenno ai vari governi regionali, ma al di là di questo dimostra una regione che fatica, diciamo, a trovare il passo giusto. Non so se perché è troppo abbandonata, è un'isola staccata, cioè non so quali siano i problemi, però il meno uno della Sardegna è stato il punteggio che più mi ha colpito. Sì, hai ragione a sottolineare che delle 20 delle regioni analizzate, la Sardegna è l'unica in negativo, cioè che rispetto al 2000 in questi indicatori ha fatto anche un passo indietro. Grazie al collega Marco Biscella, grazie al professor Bonomi. Noi adesso passiamo alla borsa, prima su tutta la settimana in negativo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms. E allora la borsa vuol dire Radio Corius, sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Meno 0,60 a Milano, a Parigi, a Francoforte, Londra è chiusa per Bank Holidays e l'America meno 0,60. Tutti all'unisono oggi gli indici. Jackson Hole più Hole che Jackson. Scusate la battuta che è un po' una freddura, nel senso che i mercati non hanno preso atto di nessun accordo, mi sembra, restano molto scettici e freddi. Le banche oggi particolarmente deboli. Sì, esatto, oggi infatti sono andate abbastanza male le azioni delle banche, un po' in tutta Europa, il sottoindice infatti perso oltre lo 0,20%, ma soprattutto a Piazza Affari, anche se va detto che ogni istituto ha avuto la sua diversa storia. Le BPM ad esempio hanno continuato a perdere punti, meno 1,68% dopo la debolezza di venerdì scorso, già innescata dai conti giudicati deludenti dal mercato. MPS invece ha lasciato sul parterre l'1%, ma invece venerdì della scorsa settimana aveva fatto molto bene, proprio festeggiando la semestrale risultata migliore delle attese. Si sono distinte le Banco Popolare, le uniche che sono andate in controtendenza rispetto a sia all'indice sia soprattutto al settore. Il mercato ha apprezzato il fatto che appunto l'istituto abbia visto migliorare il proprio utile netto a 437 milioni, il rialzo dai 200 204 milioni dello stesso periodo del 2009. Ovviamente stiamo parlando di primo semestre. E il motivo opposto è quello che ha fatto calare UbiBanca invece. Esatto, e infatti in questo caso il titolo ha perso il 2,78% proprio sulla delusione dei conti che hanno visto peggiorare l'utile del 18,9%. Allora, per quello che riguarda poi altri titoli non bancari, debole oggi Autogrill, -1,80%, e Geox, -1,60%, Prisma, -1,37%, ST Microelectronics, -1,1%. Allora, Autogrill immagino derivi anche da dati americani, anche se l'euro obiettivamente è un po' in indebolimento, 1,26,82%. Comunque, Autogrill, Geox, ci sono notizie, e ST Microelectronics. Sì, per quanto riguarda Autogrill, ovviamente è legata a doppio filo anche all'andamento del mercato americano, visto che è molto esposto oltreoceano, oltre che ovviamente all'andamento delle valute. Comunque negli ultimi giorni ha registrato movimenti molto volatili, proprio seguendo a stretto passo, diciamo, l'andamento dell'euro nei confronti del dollaro. Del resto viene considerato un titolo, diciamo, da trading, alla stessa stregua anche della stessa Geox, che ha più volte cambiato la direzione di marcia. Per quanto riguarda ST, si può dire invece che oggi ha perso l'1,12%, è un debole un po' tutto il comparto dei chip, visto che venerdì scorso Intel ha lanciato un profit warning, ovvero ha detto, ha rivisto al ribasso le stime per il terzo trimestre dell'esercizio in corso, e quindi questo diciamo è stato interpretato dal mercato come un brutto presagio, sì, chissà sì. Che non faccia altrettanto anche ST, è ecco, per questo che andiamo più in sintesi, perché ho altri titoli. Holidata +11,50%, fortissimo titolo oggi, ma soprattutto che è successo su Archimedica, -13%. Archimedica, insomma, è stato un titolo che si è mosso in maniera molto molto molto volatile, quindi Holidata che è il migliore in assoluto e Archimedica che è quasi il peggiore in assoluto, peggio lei fa solo investimenti e sviluppo, -14,8%. In verità per Holidata si può parlare di un vero e proprio rally, visto che c'è da più sedute che le azioni sono assolutamente sotto i riflettori. Anche in questo caso sono stati pubblicati i conti del semestre, ma i titoli, diciamo, che è veramente da molte sedute che si mettono in evidenza e registrano quindi un andamento sotto osservazione. Per quanto riguarda invece Archimedica, in questo caso delusione per i conti semestrali, in particolare fa paura il fatto che la società abbia accusato una perdita di 3,3 milioni contro quella di 840 mila euro dello stesso periodo. Sì, no, sarebbe interessante capire perché è salita così tanto la settimana scorsa e adesso perde, vabbè. Più roba da Consob che roba da Radio 24, però curiosità, no? Visto che i conti sono messi poi così, così male. Volete sapere, Telecom Italia -1%, alla fine chiude poco sopra l'euro, 1,05 euro per azione. Volete sapere di Fiat, visto che adesso parleremo delle prospettive sui dati auto, Fiat -0,1%, è migliorata alla fine perché perdeva un po' di più durante la giornata. In positivo, oltre al Banco Popolare e a Unipol, anche Campari +1,5%, Fondiaria +1,2%, Finmeccanica +0,6%, A2A +0,4%, come Snam, Rete Gas, Mediaset +0,3%. Grazie, l'onore Michele, Radio Colle, Sole 24 Ore, il traffico e poi i dati auto da un lato e questa nuova operazione di Sanofi Aventis che offre 18,5 miliardi di dollari per comprarsi Genzyme, non è francese, chiedo venia, la quale però rifiuta, l'offerta è troppo bassa. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, nelle settimane scorse abbiamo commentato l'operazione di Hewlett Packard che vuole comprarsi e continua a rilanciare su 3PAR. Dopo che Dell ha messo sul piatto $27 per azione, Hewlett Packard ha rilanciato a $30 per azione. Stiamo parlando di 1,6 miliardi. Poca roba rispetto all'OPA, all'offerta di acquisto definita ostile, fatta dagli azionisti di BHP per comprarsi il colosso del potassio, Potash, ne abbiamo parlato anche 2 settimane fa, praticamente $39 miliardi di dollari. E ancora nei giorni scorsi, oggi si è avuta conferma, che Intel acquisirà per 1,4 miliardi la divisione wireless dell'azienda tedesca Infineon. Intel aveva comprato a metà agosto il primo produttore di antivirus al mondo, McAfee, pagandolo a 7,7 miliardi di dollari. Volete andare avanti, Cisco avrebbe presentato un'offerta per aggiudicarsi Skype, quello che tutti conoscete per la comunicazione telefonica via internet, offerta intorno ai 5 miliardi di dollari, tant'è che secondo Ernst & Young nel secondo trimestre 2010 le operazioni di acquisizione nel settore della tecnologia a livello mondiale sono aumentate del 43%, ossia la crisi porta anche, per chi ha soldi, alla possibilità di fare shopping. E oggi l'ultima, forse non l'ultima, sicuramente la più recente, di queste offerte, come sempre definite ostili. Eh sì, perché il consiglio di amministrazione di Genzyme ha bocciato l'offerta da 18,5 miliardi di dollari che la francese Sanofi Aventis ha fatto. Sanofi Aventis è un colosso nella farmaceutica, colosso mondiale. Genzyme, non riesco a non pronunciarlo alla francese, ma è americana, è il numero 5 al mondo nelle biotecnologie farmaceutiche. Leonardo Martinelli, in collegamento da Parigi per il Sole 24 Ore. Buonasera, Leonardo. Buonasera. Allora, 18 miliardi e mezzo sono una legge finanziaria, da noi come in Francia. Li vale Genzyme, ma soprattutto gli americani dicono no, noi valiamo di più. Che cosa porta Sanofi Aventis a spendere una cifra obiettivamente molto alta? Qual è l'obiettivo? E secondo quello che si capisce in Francia, a quanto potrebbe rilanciare? Ma Sanofi Aventis ha comunque bisogno di Genzyme, perché Sanofi Aventis non è forte nel settore dei farmaci biologici, soprattutto dei medicinali destinati a malattie genetiche rare, settore nel quale Genzyme invece appunto è molto forte. Tra l'altro Sanofi Aventis ha visto proprio negli ultimi mesi la fine, diciamo, dei brevetti di alcuni medicinali, e quindi ha bisogno appunto di nuovi farmaci di punta. Al tempo stesso Sanofi Aventis sta andando molto bene e ha 8 miliardi di euro di free cash flow, quindi ha i soldi da spendere, di liquidità, e quindi diciamo che tutto fa pensare che appunto questa operazione possa andare in porta, e che in ogni caso Sanofi Aventis ha bisogno di questa società. Ora c'è appunto da decidere un piccolo dettaglio, quello del prezzo. Loro offrono $69 per azione, gli analisti dicono che potrebbero in realtà arrivare a 75, i più accaniti degli azionisti della Genzyme chiedono 80, però gli analisti dicono che probabilmente potrebbero scendere a 75, quindi probabilmente appunto bisognerà trovare un punto di compromesso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Leonardo, qui stiamo parlando però di un business, perché insomma arriverà a pagare alla fine, se anche arrivasse intorno ai 75 dollari per azione, Sanofi Aventis arriverà a pagare oltre 20 miliardi di dollari, che è una cifra, ripeto, grossa, importante, importantissima. Stiamo parlando del business e dei brevetti, soprattutto per la genetica, o meglio le malattie genetiche rare? Certo, quindi sono dei settori dove esistono dei margini molto forti, sono settori in espansione, e quindi sono settori, ripeto, dove Sanofi Aventis non è forte, perché è forte su altri comparti produttivi. Quindi diciamo che un po' l'opinione di molti analisti a Parigi è che Sanofi Aventis cercherà in ogni modo di prenderla di questa società. Tra l'altro l'amministratore delegato di Sanofi Aventis, Chris Wienbacher, ha detto oggi pomeriggio faremo ricorso a qualsiasi opzione possibile, cioè possono appunto andare verso una OPA ostile. Sì, cioè andare alla strada dell'azione sul mercato. Devo dire che da quello che vediamo noi, ci mancherebbe, due sono i settori in cui questo shopping durante la crisi viene fatto in maniera molto spinta: il settore tecnologia, e appunto citavamo Cisco, Intel, e il settore, diciamo, farmaceutico-chimico, perché Potash, come ricordavamo, è leader nella produzione di potassio. Molti di voi ci hanno chiesto nei giorni scorsi: ma cosa serve questo potassio? Non serve per chi va a correre o suda tanto, serve per i concimi. E quindi attenzione, che lì si gioca la partita su un'offerta, in quel caso enorme, ancora più grande, perché vale quasi 40 miliardi di dollari. Quello che ha messo sul piatto BHP per comprarsi la canadese Potash. E appunto, farmaceutica e chimica sono i settori in cui queste offerte e rilanci si vedono in maniera più forte, insieme a quello tecnologico. C'è un settore invece in cui se ne vedono molte poche di offerte, o perlomeno ha altri problemi, ed è il settore auto. Prossimo tema di questo programma, mentre ringrazio Leonardo Martinelli in collegamento con noi da Parigi. Parliamo adesso dei dati auto italianissimi, quelli che arriveranno fra due giorni, 349-238-6666 per gli sms. Allora, i dati escono mercoledì. Però qualcuno li ha già fatti trapelare. Li ha fatti trapelare l'agenzia ANSA, è una voce nota per chi ascolta questo programma da 10 anni. Mi riferisco al Centro Studi Promotor e al suo direttore Gianprimo Quagliano. Buonasera, Gianprimo. Buonasera, Sebastiano. Che ti è venuto in mente di parlare con l'ANSA prima di parlare con noi? O quantomeno con Radio Cori sulle 24 ore. Vabbè, allora. Mi ha chiamato prima l'ANSA. Ah, beh, allora se è così, basta chiamare. È una questione di correttezza. Va bene, alla prossima volta ci mettiamo in fila. No, a parte gli scherzi, i dati ufficiali sulle immatricolazioni auto usciranno mercoledì. Però il vostro centro studi, che devo dire è il più affidabile che c'è sul settore auto in Italia, sostiene che i dati che arriveranno mercoledì avranno il calo più forte dagli ultimi 15 anni? Sì, è così. Noi abbiamo ipotizzato, naturalmente il mercato sta andando avanti, ci sono anche in questo momento, si stanno immatricolando delle autovetture che entreranno nel conto, e anche domani, perché la chiusura del mese sarà al 31, cioè domani sera. Però noi abbiamo fatto una ipotesi sulla base dell'andamento di questa prima importante grande parte del mese, e abbiamo previsto che ci sarà un calo di almeno il 20%. Facendo un po' di conti abbiamo visto che questo calo ci porta a un volume di immatricolazioni che più o meno è quello, è a metà tra quello del 1993 e quello del 1994, cioè nel momento più nero della grande crisi del decennio passato, che appunto da cui si uscì solo con i primi incentivi alla rottamazione. D'altra parte non è una sorpresa, perché il mercato dell'auto è in coma profondo da aprile, e anche in luglio c'è stato un calo molto consistente, intorno al 26%, quindi ipotizzare un 20% per agosto ci sembra anche abbastanza cauto, tutto sommato. Potrebbe andare anche peggio. Beh, allora, dopo questa frase, torna delle vacanze anche il nostro gufo. Minuti, seconda parte di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, Gianprimo Quagliano, poi passiamo ai temi e al termometro di come stanno andando le nostre piccole imprese, che oggi ufficialmente riaprono i battenti, la maggior parte perlomeno. Avete già dei dati su queste immatricolazioni per quello che riguarda i marchi, visto che insomma state stimando, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, un dato che uscirà ufficialmente mercoledì di immatricolazioni auto che è il peggiore degli ultimi 15 anni, e vale anche per il resto d'Europa oppure siamo noi quelli messi peggio? No, Sebastiano, per i singoli marchi non abbiamo ancora indicazioni tali da consentire di fare una stima per il dato di fine mese. Per quello che riguarda invece l'andamento dell'Italia rispetto all'Europa, direi che in Europa va male, più o meno come in Italia, forse in Italia un po' peggio, però in certi mercati europei va addirittura peggio che in Italia, in altri un po' meglio, ma nel complesso l'Europa non va bene. Però nel resto del mondo il mercato dell'auto sembra essere in piena ripresa. D'altra parte le case automobilistiche non hanno certo tirato i remi in barca, ma si preparano a presentare un bel pacchetto di modelli nuovi a Parigi, poi al Motor Show di Bologna, e questo in vista della ripresa che tutti auspichiamo, ma che probabilmente vi sarà a partire dal 2011. Vabbè, vedremo poi mercoledì anche i singoli marchi. Grazie a Gianprimo Quagliano, che anche in maniera così ironica c'è stato il primo gusto, il primo gufo, scusatemi, post estivo. E adesso riaprono le fabbriche, oggi sui giornali grande enfasi, il mondo delle imprese, delle piccole e medie, oltre che le grandi, che ha visto oggettivamente un inizio del 2006 migliore, alcuni di voi diranno non era difficile, però migliore del 2009, dati in aumento, lo dicono tutti gli indicatori, fatturato, ordinativi, produzione industriale. Qualche timore c'è, ci sono molti timori sull'America, sul tipo di ripresa americana e anche sulla qualità della ripresa in Europa. Qualcuno di voi ricorderà, insomma, che di questa cosa ci occupammo cercando poi di farci raccontare come esempio emblematico da chi l'impresa la fa tutti i giorni la situazione già quando si era nella parte più brutta, adesso possiamo dirlo forse, di questa crisi. Era il 18 giugno del 2009 e insomma raccogliemmo una testimonianza importante. Allora quindi parliamo delle fabbriche che riaprono e delle speranze di ripresa. In Italia la crisi è arrivata più tardi, perché noi fino a dicembre 2008 abbiamo avuto il record di fatturato e dal 1 gennaio invece sembra che qualcuno abbia spento un interruttore. Meno 80% di fatturato, telefoni spenti, fax muto e clienti, concorrenti, fornitori con gli occhi fuori dalla testa. Da gennaio abbiamo esaurito le commesse che avevamo pendenti col 2008 e poi esaurite quelle abbiamo fatto un po' di magazzino e adesso stiamo raschiando il fondo del barile, insomma. Ha messo i dipendenti in ferie? Ferie ne avevano poche perché li ho sempre fatti ruotare, poi ci conosciamo, alcuni le ferie le paghiamo, altri rinunciano. Siamo passati alla cassa integrazione dai primi di aprile, a rotazione 5-6 persone, a maggio invece più della metà e oggi, adesso sta suonando la sirena perché vanno a casa, ho qui 7 persone su 25, insomma. 7 su 25, cioè gli altri 18 sono in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione e man mano mi servono, in base alle loro qualifiche, li faccio venire. Ci parliamo, ci diamo del tu perché ci conosciamo, veniamo tutti da un piccolo paesino, è proprio l'azienda presepio. Piccinelli adesso vede cosa può fare, perché quelle due palanche che mi ha lasciato il nostro padre le abbiamo reinvestite in azienda e stiamo cercando di salvare il salvabile, però Piccinelli, suo fratello, devono anche tutelare le proprie famiglie, quindi io temo che dovremo prendere delle decisioni molto spiacevoli. Fino all'ultimo cercheremo di arrabattarci in qualche modo, trovare nuove cose, cercare di... Però io ho la sensazione che stia accadendo dal decimo piano e continuiamo a dire finora tutto bene, finora tutto bene, finora tutto bene. Ecco, poi alla fine troveremo il marciapiede. Era il 18 giugno del 2009, la testimonianza era molto più lunga. Paolo Piccinelli, che è titolare della Hydro Brand, lo possiamo dire, l'abbiamo già detto, è un'azienda bresciana, è veramente... l'ideal tipo della piccola impresa italiana, 25 dipendenti, produce quasi per terzi, commercializza accessori idraulici da presa per gru da camion, escavatori idraulici, è presente in 35 paesi, insomma il classico caso di piccola impresa italiana. E c'era questa frase che ci aveva molto colpito perché più di tante analisi dava la sintesi completa di cosa stava avvenendo nel mondo dell'economia. È come se qualcuno avesse spento la luce, tutto si era fermato. Lo risentimmo dopo l'estate, quindi parliamo del settembre, inizio ottobre del 2009, e già lì qualcosa, perlomeno diciamo, la salvezza dell'impresa e soprattutto dei suoi dipendenti, iniziava ad esserci. La cassa integrazione a luglio l'abbiamo ridotta sensibilmente rispetto a maggio e giugno, perché appunto c'è stata una leggera ripresa degli ordini. Ad agosto poi abbiamo chiuso tutto il mese, cosa mai successa, però purtroppo abbiamo dovuto imporci questo mese di chiusura per fare un po' il punto della situazione, e come noi quasi tutti gli imprenditori che collaborano con noi. A settembre fortunatamente siamo rientrati col personale al 100% per le prime 3 settimane e alcuni ordini pian piano stanno arrivando, anche grazie a nuove linee di prodotto che nel frattempo ci siamo affrettati a mettere in piedi. Per far fronte a tutti gli impegni a breve con i fornitori abbiamo messo le mani in tasca e abbiamo apportato dei nuovi capitali, dell'aria fresca all'azienda. Per quanto riguarda i clienti invece abbiamo avuto qualche sofferenza che adesso pian piano sta rientrando. Ecco, diciamo, noi abbiamo fatto le banche da banca ai clienti fino all'inizio dell'estate. Fortunatamente non siamo esposti con cifre enormi. I nostri clienti hanno tutti, diciamo, abbiamo tanti piccoli clienti e quindi questo ci aiuta a rientrare pian piano. Ecco. Il rapporto delle banche è ancora stabile, stabile al brutto, nel senso che a fronte di un istituto che ci ha aiutato a rimodulare i nostri impegni a breve, altri continuano a mandare avanti lettere con aumento di costi, aumento di commissioni, riduzione dei fidi, insomma la fiducia delle banche nei nostri confronti è diminuita moltissimo e io credo di non meritarmi un trattamento del genere. Ecco. Era un anno fa, quasi, il 24 di settembre 2009, già qualche segnale di miglioramento, ma con molti problemi ancora, e la cassa integrazione che resta mantenuta. E allora ci fa piacere, visto che festeggiamo, in qualche modo ricordiamo la riapertura delle fabbriche oggi, salutare Paolo Piccinelli. Buonasera. Buonasera dottor Barigioni, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, lei è vivo da un punto di vista imprenditoriale, questa è la cosa più importante. Vivo e vegeto. Vivo e vegeto. Vivo e vegeto. E questa è la cosa più importante, perché chi ricorderà quell'intervista di un anno e mezzo fa, obiettivamente, insomma... Sì, a giugno le tinte erano veramente fosche. Ecco, allora l'importante è andare avanti, guardare al futuro e non solo al passato. Vorrei però capire, dopo le informazioni sul traffico, come stanno andando gli ordinativi, visto che l'abbiamo eletta nel male prima e nel bene adesso, forse, come modello, ideal tipo della piccola impresa che esporta tanto, che ha tanti presenze nei paesi, che però soffre tantissimo quella che è la dinamica globale. Vorrei sapere come è andato questo inizio del 2010, questi primi 6 mesi, come sta riandando l'attività, quante persone se le ha in cassa integrazione e come si sono mosse le banche nel frattempo. Forza Piccinelli, scrivono. Ormai sono Lugo Fantozzi delle piccole imprese. Come, scusi? Sono Lugo Fantozzi delle piccole imprese. Ah sì, certo. No, perché Fantozzi era anche... L'avete preso a modello. Ecco, no, non è questo. L'abbiamo preso come caso ideale, caso di scuola, perché purtroppo, come lei, erano decine di migliaia di imprenditori messi in quelle condizioni. Allora, visto che a nostro avviso lei racconta attraverso la sua biografia quello che sta capitando a livello macroeconomico al mondo delle piccole imprese italiane, mi dice come sono andati gli ordinativi e il fatturato, visto che siete rimasti in vita e non era scontato un anno e mezzo fa, un anno fa dicevate che qualcosa stava migliorando, come è andato il 2010? Allora, diciamo già da settembre, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, c'è stata una lenta crescita ma costante. E dal settembre fino a dicembre e poi da gennaio ancora fino alla fine di luglio, quindi una crescita leggera ma costante, che ci ha permesso non solo di ritornare a vedere il segno più sui bilanci, ma anche di avere qualche margine di manovra per impostare anche un minimo di strategia per il futuro. Non abbiamo più fatto ricorso alla cassa integrazione dalla sua ultima telefonata, abbiamo però ridotto fortemente le collaborazioni esterne, quindi tutte le lavorazioni che appaltavamo conto terzi le abbiamo interiorizzate e abbiamo cercato di agire soprattutto sulla struttura interna dei costi e sulla ristrutturazione finanziaria in modo da superare la fase critica. Ecco, allora mi faccio capire, il fatturato come va? Il fatturato va meglio rispetto al 2009, ad oggi abbiamo fatto l'intero fatturato del 2009 e mancano ancora 4 mesi alla fine dell'anno. Beh, questa è una buona notizia, cioè il 2009 è un anno nero per non dire qualcos'altro. Sì, il 2009 abbiamo fatto al 31 dicembre meno 52% rispetto al 2008. Se proseguiamo con il trend attuale rispetto al 2008 quest'anno chiuderemo ad un meno 25, meno 30, quindi è già un... Cioè meno 25... Meno 30 rispetto al 2008. 2008 e quindi un più 25, più 30 rispetto al 2009. E da dove arrivano gli ordinativi più importanti? Soprattutto dall'Italia e dalla Germania. Ah, e da dove non arrivano invece come arrivavano prima? Da dove non arrivano, la penisola iberica si è completamente fermata, la Grecia dove avevamo diversi ottimi distributori non ha più comprato un bullone, e anche il Regno Unito è in forte recessione rispetto agli anni passati. Quante ferie ha fatto quest'anno? Quest'anno 3 settimane. Infatti io sto lavorando dal 23, anche se ufficialmente dovevamo riaprire oggi, però mi ha cominciato una settimana prima per appunto soddisfare le domande dei clienti esteri che ad agosto non chiudono. I 25 dipendenti sono rimasti tutti? I 25 dipendenti sono diventati 15. Perché? Fortunatamente nessuno ha perso il lavoro, perché allora un paio li ha mandati in pensione perché avevano maturato l'età pensionabile e non sono stati sostituiti. Un'impiegata ha trovato un lavoro più vicino a casa, così come altri collaboratori. Quindi siamo riusciti a ridurre la manodopera, contemporaneamente salvando anche il posto di lavoro di chi era qui. Ecco, fortunatamente siamo in una zona in cui i disoccupati vengono riassorbiti molto in fretta, perlomeno gli italiani residenti, e quindi Incredibile come lei, ma dico è incredibile perché non l'abbiamo fatto apposta, come veramente il suo caso sia un caso di scuola, perché lei ha fatto un più 25% rispetto all'anno scorso, però ha ridotto di quasi il 40% l'occupazione, ecco la riduzione dei costi, ed ecco in maniera molto concreta quando si dice jobless recovery, quindi la ripresa, la crescita economica senza posti di lavoro, è proprio il caso suo. I conti sono tornati in ordine, gli ordinativi ci sono, però gli occupati sono 40% in meno rispetto, rispetto a prima. Mi dice un'ultima cosa, Piccinelli, lei conta di assumere nei prossimi mesi? Guardi, noi adesso non abbiamo assolutamente prospettive a medio e lungo termine, perché l'orizzonte temporale dei nostri ordinativi è di 6-8 settimane al massimo e questo non ci permette di pianificare assunzioni in un mercato del lavoro che, come lei sa, è probabilmente il più rigido. Quindi la risposta per ora è no. Le banche adesso la guardano con maggiore interesse? Noi abbiamo presentato un bel bilancio fine anno, bel bilancio, per quanto può essere un bilancio con una riduzione di metà del fatturato, perché abbiamo posto particolare enfasi sulla ristrutturazione dei costi d'esercizio e la ristrutturazione finanziaria, e quindi le banche hanno cominciato a guardarci con occhi diversi, cioè, hanno capito che a fronte di questa riduzione di fatturato c'è stata comunque una rapida reazione per riportarci con la barra del timone al centro, ecco. Piccinelli, in bocca al lupo a lei, ma a tutti i Piccinelli, i milioni di Piccinelli che erano messi come lei, che ci auguriamo siano messi come lei adesso, e soprattutto che ci auguriamo tornino come nel 2008 proprio per i dipendenti. In bocca al lupo a lei e a tutti quelli che lei rappresenta. La ringrazio, buona serata. Radio 24, la passione si sente.